cosma. Suicidio troppo emotivo. Guarda che faccio. C'è mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sonnona, scolizzante, affettuosa. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Non sta mica tirandomi sul morale con i soliti discorsi sulla vita. Troppo intelligente, obiettivo, dai. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto, fino alla fine. Ecco, lo vedi anche tu, sono un fallito. E lui, sì, e mi indica la scogliera. Lo specchio non lo frego, ad occhi chiusi si sogna. Contro natura, contro voglia, varco quella soglia. Nel mentre la mia mente verso il vuoto si dirige. Non parlo con chi di dovere, so già cosa mi dice. Venite, venite, braccia aperte, ci si accoglie. Ma mentite, mentite, sotto mentite spoglie. In testa ho sempre avuto un carcere, lo voglio abbattere. Non posso limitarmi a indossare fottute maschere. Chiacchiere, ma basta parlare, basta con la messa. Ora voglio fare chiarezza, con consapevolezza. Di aver dalla mia parte la mia cerchia una certezza. Giorno dopo giorno in sto mondo di merda si invecchia. Ora via la svelta, anche stamattina ci si sveglia e ci si specchia. A fare i conti con la sera prima ed una sera orrenda. Ti danno una cura, ma non c'è niente da curare. Fa sempre più paura questa chiusura mentale. Ritorna al malumore con la nebbia, poi si stagna. Ascolta sto rumore, è il silenzio che dilania. Tutto il resto è feccia, ma qualcosa ha fatto brezza. Batto il tempo con il piede, quasi temporeggia. Denudato di rispecchi, ci pensi, ti detesti, ti rivesti. Un disadattato tra i disonesti. Un pensiero che m'assilla, ci vorrebbe una scintilla. In realtà basterebbe una notte tranquilla. Sorge il sospetto, io che proietto di rigetto questo aspetto. Fissi in uno specchio, retto al suo cospetto. Mi rifletto, ricerco spesso il tuo verdetto. Getto nel cesso ciò che non è scritto in più diretto. Ecco il concetto, un compromesso emesso per diletto. Tra me stesso e il resto, messo giù in un testo senza alcun pretesto. Non sarò oggetto di scorretto se commetto nesso mente gesto con rispetto. Guarda, ci scommetto, detesto e desto ogni difetto che riporto appresso. Di possesso comprometto ogni prospetto già sorretto. La verità che sta nel mezzo non lo metto. Stretto suo processo, retrocedo, farò progresso. Presto avrò già messo ciò che avevo presso. Presso l'intelletto pago caro prezzo quello che commetto. Riesco se mi appresto a dare a testo quel dissesto. Chiesto perché impresso nell'interno del mio petto. E non accetto se mi dice sono perfetto, né protesto. L'estro mai maestro, mai richiesto e mai concesso. Mi disinteresso se per esso del ribrezzo. Spezzo il suo contesto, un taglio netto in cui mi affretto. Esco col permesso del perplesso verso ciò che qui confesso. Tendo dell'orecchio da parecchio nell'eccesso. Scopro solo adesso cosa apprezzo. Specchio del mio specchio, io di te nessun affetto. Intera cresco, parti di un espresso che col tempo poi trasmesso. Pezzo dopo pezzo capirò cos'è successo. Cedo nell'accesso dell'eccetto. Trovo ogni problema confrontandomi a suddetto. Un esame di coscienza se mandato del maestro è prestare l'attenzione nell'azione. Suo complesso valutando all'occasione quale mai sarà l'effetto. Sfreccio svelto nell'intreccio di coerenza. Sono costretto e a dispetto della colpa non mi faccio fare fesso da quel senso maledetto che da colpi di calzetto. Mantenendoti per terra da manesco con un destro ti fa secco e metà stecco. Manifesto che in ascolto tutto ciò che poi mi aspetto. Dichiarandone la causa, esplicitandone il soggetto. Consapevole del peso che per te io non resetto. Ma so già cosa mi dice e mi rispondo come non detto. Yo porco.